Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Messico del Nord, stato del Chihuahua. Dal 1994 ad oggi, 400 ragazzine trucidate dai narcotrafficanti. Marisela era la loro insegnante, la maestra di ragazzine povere che vivono sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti. Una frontiera che può essere di gomma o di burro, a seconda della fortuna degli emigranti irregolari che cercano di oltrepassarla. Marisela le vedeva quasi tutti i giorni, tra i banchi, con quel loro aspetto acqua e sapone, desiderose di apprendere, di studiare, anche se il loro destino era un contratto già scritto: lavorare nelle maquilas, le infinite fabbriche con infiniti tempi di lavoro che là, sulla frontiera, godono di agevolazioni fiscali e di una manodopera affamata. Marisela si accorse che improvvisamente alcune delle sue alunne non venivano più a scuola. Sparì la prima, poi la seconda, infine la terza. Malgrado le denunce dei genitori, la polizia non sembrava allarmata. «Vedrete», disse una volta un ispettore, «torneranno tra un anno con un bel bambino in braccio». Quando diventò impossibile ignorare quello che stava accadendo, malgrado i depistaggi della polizia e l'ambiguità delle autorità politiche, quando diventò impossibile ignorare, fu perché Marisela aveva radunato quelle madri e aveva detto loro: «Dobbiamo urlare, urlare forte, perché altrimenti non ci ascolteranno mai». I primi corpi delle ragazze vennero ritrovati nel deserto, a distanza di mesi, in quel deserto dove si nascondono gruppi di paramilitari armati e bande di corrieri di droga, armati più di loro. «Verità e giustizia», gridavano le madri, «a Ciudad Juárez, come nella capitale Chihuahua, un nome che nulla ha a che vedere con quel cane di razza». Ma le ragazzine continuavano a morire. Mai un testimone oculare che avesse assistito ad uno di quei rapimenti, solo i tristi cortei delle madri, nei campi di cotone bruciati dal sole, dove i loro straziati corpi venivano ritrovati. Marisela era a capo di quel grido che si perdeva nel frastuono, che veniva assorbito dall'assordante silenzio del deserto. L'insegnante e le madri alla ricerca della verità, seguendo i fantasmi di giovani svanite che dopo la morte ricevettero il fango di chi diceva che in fondo se l'erano cercata. Mentre in Messico l'esercito nazionale fa la guerra contro battaglioni armati di narcotrafficanti ricchi come banche svizzere, mentre i blindati occupano città e paesi da dove fuggono i fuoristrada di spietati criminali, mentre tutto questo accade, nel nord, la maestra e le madri delle ragazze ormai ridotte a fantasmi chiedono ancora giustizia, cercano ancora verità. Maurizio Braucci in libreria con Per sé e per gli altri, Mondadori, 174 pagine, 17 euro.